Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, come sapete, oggi per Milano è giornata di vertice, conferenza internazionale sul lavoro, arrivati i ministri degli esteri, i capi di Stato, la cancelliera, insomma, oggi Milano è davvero Europa. Purtroppo però i temi sono quelli di cui discutiamo ormai da mesi, in primo luogo il lavoro. Sentiamo da Sergio Nava se ci sono novità. Sergio, buongiorno. Buongiorno Gigi, è arrivato poco fa qui al Centro Milano Congressi il Premier Matteo Renzi, che non ha rilasciato le dichiarazioni, si è limitato a dire parliamo dopo, cioè in conferenza stampa. Nel frattempo è in corso la riunione dei ministri del lavoro europei, che sono arrivati intorno a ora di pranzo. Hanno parlato sia la ministra tedesca che quella spagnola. Cominciamo a sentire allora Andrea Nahles, ministra tedesca del lavoro. Il compromesso deve essere doble di tutti i paesi, primero haciendo la reforma estructurales en casa y luego pidiendo a Europa que también reaccione complementando ese esfuerzo que hemos hecho. Allora, qui abbiamo direi incrociato i file, perché naturalmente questo accento non ci porta alla Germania. Sergio, raccontaci il contenuto. Ecco, quella che dice Fatima Magnez, occorre fare riforme strutturali per chiedere poi all'Unione Europea strumenti per la crescita e l'occupazione. E sulla stessa linea anche la ministra tedesca del lavoro, Andrea Nahles, sentiamola. Wir kooperieren, wir wollen, dass die Jugendarbeitslosigkeit abgebaut wird und jeder Jugendliche, der durch die Anstrengungen, die wir auch heute wieder miteinander ergreifen, vermittelt wird, ist Sergio Nava, einer, der wirklich einer... Ecco, non so se mi sentite. Prego, Sergio. Servo, ecco, dice Andrea Nahles, cooperiamo, vogliamo ridurre la disoccupazione giovanile, ogni giovane deve avere prospettive, i mezzi ci sono, ora i risultati, dice Andrea Nahles, che come la ministra spagnola ha rimarcato, servono più riforme strutturali. E sull'Italia, sui rapporti con l'Italia, Andrea Nahles dice con l'Italia un'atmosfera amichevole, anche se ci sono differenze di vedute. Comunque tra poco arriveranno i leader alle 18, la conferenza stampa Merkel-Renzi. Grazie Sergio Nava, che naturalmente ci aggiorna tutta la giornata su quanto accade, peraltro non davvero molto lontano dalla redazione di Radio 24. Invece accade a Bruxelles che siamo alle strette, dunque, per definire la commissione. Il caso Navracsics in primo luogo, il commissario candidato ungherese fa discutere, ma non è l'unico. Navracsics in particolare è stato bocciato, si può dire, dalla commissione cultura. La commissione cultura infatti l'ha definito idoneo nel suo impegno negli ideali europei, ma non ha dato a ricoprire quel ruolo specifico. Abbiamo chiesto all'europarlamentare italiana Silvia Costa, che presiede la commissione che di fatto l'ha bocciato, che cosa accade ora. Dico che naturalmente adesso non è tutto nelle nostre mani. Il dovere della Commissione Cultura l'abbiamo fatto e l'abbiamo detto con chiarezza. Adesso ci sarà la conferenza dei presidenti delle commissioni, nella quale si dovrà comporre il quadro, perché sono altre questioni diciamo sospese, su altri commissari su cui ci sono delle problematiche, e a quel punto si dovrà vedere, trovare un punto di incontro, di mediazione, per vedere quale può essere la soluzione. Naturalmente le soluzioni possono andare da quella di cambiare portafoglio e vedere qual è un altro portafoglio. Non è facilissimo, perché bisogna trovare, come dire, una sostituzione all'interno delle deleghe già affidate ad altri, oppure quella di rivedere il suo portafoglio. Ma io credo che la migliore soluzione sia quella proprio di pensare ad un altro, alla gestione di un altro, di un'altra competenza. E quindi il processo è ancora in corso, siamo dentro un processo di valutazione, non abbiamo concluso. E come dicevo, non riguarda solo Navracsics la questione. L'ex premier sloveno Alenka Bratušek ha infatti smentito categoricamente le voci di un suo ritiro e del ritiro della sua candidatura alla Commissione Europea. Tra l'altro l'ex premier slovena ha lanciato pesanti accuse ad ambienti politici del suo paese, che dice sostanzialmente le stanno tagliando le gambe in queste giornate decisive. Chi invece non capisce, l'ha detto esplicitamente, è Conchita Wurst, che questa mattina, forse la ricordate, la recente vincitrice di Eurovision, la donna con la barba di fatto, che ha cantato e vinto a Eurovisione, dice: non capisco dov'è il problema sul tema dei matrimoni delle persone dello stesso sesso, sono sbalordita. Questo il suo commento intervenendo questa mattina al Parlamento Europeo a Bruxelles. Ma sentiamo da Marta Cagnola che cos'è accaduto. piccolo palco sull'Esplanade Solidarnosc davanti al Parlamento Europeo, a esibirsi con Cita Wurst, la vincitrice dell'ultimo Eurovision Song Contest. Il voto dei cittadini europei all'Eurovision, ha affermato la vicepresidente del Parlamento Europeo Ulrike Lunacek, è stato un voto a favore della tolleranza. Ciò deve trovare riscontro nell'Unione Europea e negli Stati membri, dove dovrebbe esistere un quadro giuridico e legale che permetta di vivere e amare senza paura. E la stessa Concita, all'anagrafe Thomas, durante una affollata conferenza stampa prima del concerto, ha commentato quello che succede in queste ore in Italia, ma ha sottolineato non solo. I just don't get it. Non riesco proprio a capirlo, non capisco perché ci siano ancora politici che hanno paura, ha detto. Dovremmo essere felici e là fuori ci sono persone che non vogliono che tutti lo siano. There are still people out there who don't want to make everybody happy. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto, Europa 24. Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.